Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 26 ottobre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. E come sempre qui con voi c'è Antonella Cortese, che è qui con me in realtà. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E ovviamente io che sono Caterina Bombarda alla conduzione con Antonella di questo programma. Ovviamente questo programma che va in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Oggi partiamo da una notizia, diciamo, indagine sui costi del Covid. Lo leggo da Il Riformista, firma di Angela Stella. Carcerati stranieri a Rom, quanto è costato il Covid agli emarginati? Ed è interessante perché è stato pubblicato il rapporto sullo stato dei diritti realizzato dall'associazione A Buon Diritto e dalla Chiesa Valdese, che passa, diciamo, in rassegna l'impatto della pandemia sulla vita delle persone, dalla sfera sociale a quella educativa. Il nome completo del rapporto è Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, ed è un utile strumento per tracciare appunto una panoramica sullo stato di salute dei diritti nel nostro paese. Sono 17 capitoli, ognuno dei quali racconta un diritto e una storia di donne e uomini che si sono battuti per affermarlo. Senti Caterina, proprio parlando di Covid, qual è stato l'impatto secondo i ricercatori? Allora, a questo proposito c'è un capitolo dedicato che si intitola Prigionieri e fa riferimento a tutte le persone private della libertà personale nelle carceri e nei centri di permanenza per i rimpatri, dove in particolare l'emergenza pandemica è intervenuta in una situazione penitenziaria già strutturalmente emergenziale, come tante volte ci siamo ripetuti, caratterizzata cioè da un gravissimo sovraffollamento. Pensate che, come ha ben ricostruito anche Antigone nella storia delle nostre carceri, siccome c'è l'osservatorio Antigone in tante delle carceri italiane, a fine febbraio del 2020 le 190 strutture penitenziarie italiane contavano più di 61.000 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.000 e passa posti, diciamo, con un affollamento quindi superiore al 119%. Poi, grazie al decreto Cura Italia e alla circolare DAP del 21 marzo 2020, si è determinata una riduzione davvero importante della popolazione detenuta, che a fine aprile raggiungeva la quota di quasi 53.000 persone, scesa poi a luglio ulteriormente, quindi con un tasso di affollamento solo del 106%, quindi si era quasi giunti a livelli normali di capienza. Alla circolare DAP è però dedicato un sottoparagrafo che è interessante perché cita: diversamente dal DL Cura Italia, prescindeva dal titolo del reato ai fini della concessione del beneficio, muovendosi dunque in una logica essenzialmente sanitaria e ha suscitato forti critiche, soprattutto a seguito della scarcerazione di Pasquale Zagaria, che come sapete è un esponente di picco della camorra del clan dei Casalesi. E quindi le polemiche scaturite da questa decisione giudiziale, criticata anche dal presidente della commissione antimafia, hanno indotto il DAP al ritiro di questa nota circolare, per l'appunto. Caterina, senti, ma quali sono state le conseguenze invece sul fenomeno migratorio? Allora, diciamo che le difficoltà nella gestione della pandemia hanno sicuramente aggravato anche il settore del governo e del fenomeno migratorio, che già precedentemente soffriva di gravi carenze. Una delle misure maggiormente critiche adottate nel contesto pandemico è stata quello del trasferimento coattivo dei migranti su navi di quarantena e soprattutto per il problema anche dei tempi di isolamento su queste navi, che sono stati spesso anche ingiustificatamente protratti per troppo tempo, e anche i tentativi di fuga che sono costati la vita ad almeno 3 migranti. Ma non è l'unico fattore critico, Antonella, perché anche nel 2020 l'Unione Europea resta la grande assente per quanto riguarda le questioni migratorie e il diritto d'asilo. È sorprendente invece ciò che ha fatto l'Italia, perché al contrario il Parlamento italiano ha approvato una serie di modifiche interessanti. E pensate che al quadro normativo su immigrazione e asilo, che merita per l'appunto attenzione, il 21 ottobre il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto legge 130-2020 che ha modificato alcune disposizioni dei due decreti sicurezza. Infine, sempre allacciato al tema dell'immigrazione, c'è il problema dei cittadini Rom e Sinta, che già avevano una situazione gravissima, alloggiativa e anche lavorativa molto svantaggiata, e in condizioni ancora peggiori si sono trovati coloro che vivono in insediamenti irregolari, dove già mancano le condizioni minime di igiene e non c'è accesso ad acqua potabile. Sono contesti questi in cui il diritto alla salute era già precluso prima della pandemia, e quindi ai problemi sanitari già preesistenti si sono sommate le difficoltà poi scolastiche, visto che molti bambini e ragazzi che vivono nei campi hanno scarso accesso ai supporti tecnologici. Questi sono stati gli impatti della pandemia anche su chi i diritti purtroppo nel nostro paese ne ha pochissimi. Rimaniamo sempre con U2, sempre una pausa musicale con With or Without You, e fra poco ci rivediamo con Antonella. Set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you. With or without you. E rieccoci, ben ritrovati, sempre dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro e Du Radio TV. Continuiamo, come sapete, con Antonella il nostro martedì itinerante, passiamo dalla Bosnia alla Serbia e parliamo di Belgrado. Sì, continuiamo il nostro viaggio, Caterina, il nostro viaggio balcanico, e passiamo ad una delle città più affascinanti e longeve d'Europa, appunto Belgrado, che apparteneva all'ex Jugoslavia ed è stata una delle città, diciamo, ed è una delle città più popolate, anche se in realtà le città più popolate devi sapere che rimangono quelle asiatiche. Soprattutto in Cina, cioè anche Shanghai è una città, la seconda forse città più popolosa. Vabbè, ma al di là dell'elemento numerico, Belgrado è una città molto importante per la Serbia, perché è anche, diciamo, quella che trascina un po' l'economia rispetto alle altre città. È situata tra due importanti fiumi che sono il Sava e il Danubio, e si trova a 116 metri dal livello del mare. È posizionata nel cuore della vecchia provincia della Serbia centrale, proprio dove i territori balcanici si uniscono alla Pannonia. Diciamo che abbiamo detto un alto tasso di popolazione, con un'estensione pari a 360 chilometri quadri, ed è per questo motivo che poi è divisa in ben 17 comuni autonomi. Ma raccontaci qualcosa sulla sua storia. Beh, sai benissimo che la storia dei Balcani è ricca ed è piena di di storia di guerra, soprattutto diciamo nella seconda parte, nella seconda guerra mondiale. Però il nome antico di Belgrado era Singidunum, e si ricordano i soggiorni di importanti figure storiche di in quel periodo, come gli imperatori Marco Aurelio, Tirano, Costantino il Grande. E risale invece al 395 la sottomissione all'impero romano d'Oriente, fino a quando poi dopo non si insediarono gli slavi nel 630, che cambiarono anche il nome della città in Belgrado. E fu poi nel 1389 che la città serba entrò a far parte del vasto impero ottomano, divenendo così terra di numerose moschee e patria di moltissimi turchi. C'è stato tutto un tira e molla con i turchi nel tempo, in realtà, in quest'area, e tra austriaci e turchi, per essere precisa. E l'autonomia arrivò comunque nel 1817, e da lì a poco Belgrado divenne la capitale. Ma diciamo che la Belgrado che conosciamo noi è quella molto più recente, che ci rimanda un poco alla Seconda Guerra Mondiale, quando Belgrado passa al Regno Jugoslavo nel 29 e viene bombardata dagli eserciti nazisti nel 1941. Dopo essere passata sotto l'ala dittatoriale di Tito e aver subito altri numerosi attacchi, tra cui anche quelli della NATO, la Serbia riuscirà a ottenere l'indipendenza tra il 92 e il 95. Mi verrebbe da fare un'osservazione, diciamo, climatica. Noi siamo quasi arrivati alle porte dell'inverno, ma che clima fa a Belgrado? In una parola, d'inverno fa freddo, ma fa veramente freddo. Si può arrivare anche a meno 27, quindi insomma è un posticino non certo da svernare. Però la capitale serba è caratterizzata da un clima tiepido in altre stagioni, che si aggira intorno agli 11 gradi. Il picco estivo può arrivare a circa 22 gradi, e quindi per noi, diciamo, non è che sia così caldo. E d'inverno poi, Caterina, in effetti le ore di sole sono molto molto ridotte, si arriva a 2-3 ore di sole al giorno in certi mesi dell'anno. Stiamo parlando diffusamente dei Balcani in queste ultime due puntate, che sono posti molto affascinanti. La volta scorsa hai parlato di Sarajevo, ma ti chiedo, anche Belgrado è una città così turistica? Sì, Belgrado è una città turistica, io l'ho visitata qualche anno fa, e in particolare si può visitare il centro della città, dove appunto ci trovi la maggiore concentrazione di turisti in realtà. E c'è Starigrad e Zemun, che è un quartiere della parte antica della città, dove si possono visitare il parco Topčider, non mi ricordo se si pronuncia esattamente così, comunque, e la Torre del Millennio, il mausoleo dedicato a Tito, che tra l'altro non è in centro in realtà. E il mausoleo dedicato a Tito, la cosiddetta Casa dei Fiori, perché venne scelto proprio perché i numerosi fiori che circondavano la tomba. È aperto al pubblico, ingresso libero, ma è un posto molto strano, devo dire la verità, prima di tutto perché attira ancora moltissimi visitatori, specialmente il 25 maggio, giorno del compleanno di Tito, e poi perché ha un'altra importante parte dell'esposizione dedicata al famoso treno blu. Il treno blu era il mezzo di trasporto preferito da Tito per ospitare i leader dei paesi stranieri, perché poi a un certo punto Tito aprì al rapporto con i paesi esteri, per viaggiare, e lo usava per viaggiare anche attraverso la Jugoslavia, ma è un mezzo lussuosissimo, elegante, c'erano stanze curate, con tutte le comodità, insomma fa un po' senso. Poi per chi invece vuole andare a fare un giro sulle spiagge d'estate, si può andare ad Ada Cingalia, che è un'isola nata sul fiume Sava. Allora, per tornare alla musica dei Balcani, ascoltiamo Banda Cadabra, una street band di musica balcanica. A voi, ascoltiamola insieme. Buongiorno a tutti e bentornati su Liberi Dentro e Radio TV. E come sapete, la seconda parte della nostra puntata è con l'ospite, l'avete già conosciuta, lei è Giulia De Rocco. Buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Dottoranda in Scienze dell'Educazione, per parlare oggi di letteratura in luoghi di privazione della libertà personale, stiamo parlando ovviamente delle carceri, e quindi prima di tutto, Giulia, cerchiamo di sfatare un mito. È compatibile con il carcere la lettura o il troppo rumore non favorisce questa bellissima abitudine? Allora, certamente il setting, soprattutto il setting della cella, non è esattamente facile, non si presta, almeno dall'esperienza che ho avuto io di persone detenute che ho conosciuto, mi hanno sempre raccontato che è molto fastidioso avere per esempio la televisione sempre accesa, avere le persone che chiaramente e liberamente parlano intorno. Dalle interviste che ho fatto per la mia tesi, le persone mi hanno raccontato che vanno spesso a leggere in biblioteca, che è un luogo molto silenzioso, anche se potrebbero succedere in alcune occasioni, immagino che in quest'ultimo anno non sia stato esattamente facile, ci siano delle regole un po' stringenti per la frequentazione della biblioteca. L'altra alternativa è che, come sappiamo noi esseri umani, sappiamo essere anche resilienti, e quindi si impara a costruire intorno una sorta di bolla in cui riuscire ad evadere attraverso la lettura. Giulia, cerchiamo anche di capire il significato che assume la lettura all'interno di un carcere. Assume un significato appunto particolare di fronte a tanto tempo da riempire in qualche modo. Allora, io penso che non so se posso dire e se voglio dire che la lettura assume un valore particolare in carcere, perché io penso che la lettura sappia avere un valore importante in qualsiasi contesto. E estenderei anche alle storie, alle narrazioni in generale, non solamente alla lettura, quindi anche al cinema, al teatro, anche a delle occasioni in cui semplicemente ci si confronta e ci si racconta. Questo lo dico perché mi preme sempre includere anche le persone che magari per le più svariate ragioni non hanno la scrittura. Scrittura e la lettura come mezzo di comunicazione principale. Io penso che in carcere abbia un valore particolare nella misura in cui sia tanto tempo, o purtroppo, e quindi chiaramente il tempo dedicato alla lettura è un tempo che viene di conseguenza dedicato a sé, alla cura del proprio mondo interiore e dal punto di vista più specifico è uno strumento che ha delle potenzialità rispetto alla cura di sé. Quindi attraverso l'interazione che una persona ha leggendo con i personaggi delle storie, dei libri, può fare un percorso anche di rispecchiamento, di presa di distanza, e quindi così facendo è un processo che aiuta a ripensare la propria vita e magari a prendere posizione su alcune questioni rispetto alle quali magari il tempo fuori non aveva permesso di pensieri. E lo accennavamo l'altra volta, tu hai avviato a Verona un laboratorio di lettura all'interno del carcere, di lettura insieme, quindi cercando di passare da quella che è la dimensione della lettura individuale alla lettura collettiva. Che cosa cambia in questo passaggio, soprattutto in un contesto così misto come per l'appunto il carcere? Le dinamiche sono le stesse dentro e fuori, no? Perché siamo sempre persone, è chiaro che le persone private della libertà vivono una condizione particolare, ma sono fatte come tutti, no? Noi abbiamo il privilegio di essere liberi, ma... E quindi anche nei gruppi di lettura fuori le caratteristiche sono molto simili. Il passaggio dalla lettura individuale alla lettura collettiva ha dei grandi vantaggi, che sono per esempio l'avvio di discussioni, il riuscire a capire, a parlare di questioni di cui magari non ci eravamo accorti leggendo il libro, no? Mi diceva una volta una detenuta che aveva partecipato a uno dei miei gruppi di lettura, che alla fine del gruppo sembrava di aver letto sei libri diversi, perché eravamo in sei, invece che uno solo, perché chiaramente ognuna porta il suo vissuto di lettura, no? Che va ad intersecarsi con i propri pensieri, i propri vissuti. E diciamo che la lettura collettiva è generativa di pensieri diversi. E poi una cosa che invece in carcere non va assolutamente sottovalutata è che forse questa rappresenta un po' insomma una differenza, perché chiaramente chi partecipa ai gruppi di lettura fuori ci vediamo una sera al mese, una sera ogni 2 settimane, e poi ognuno torna nelle proprie case. Invece la lettura condivisa e collettiva in carcere promuove un po' il benessere della collettività, della comunità che vive nelle sezioni. Quindi diciamo che incontrarsi per parlare, fare qualcosa di diverso dal solito, contribuisce alla costruzione di un ambiente più sereno, più tranquillo, e le persone si conoscono anche in modo diverso, magari nascono dei legami particolari, magari 2 persone che magari non andavano proprio d'accordo, non si conoscevano, scoprono di avere dei gusti o dei pensieri comuni, e questo è molto generativo. Queste le relazioni sono lo strumento di resistenza in carcere, no? Quindi in questo senso penso che sia molto importante. E allora, proprio perché hai parlato di questa serenità che si crea quando si legge anche insieme, io ho pensato a una playlist con te tutta dedicata a canzoni che promuovono il sentimento e l'emozione della gioia, e quindi una pausa musicale con Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, e ci rivediamo tra pochissimo. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. E rieccoci, bentornati. Dopo questa pausa musicale siamo sempre con Giulia De Rocco, per parlare di libri e di letteratura in luoghi inconsueti, come appunto il carcere. E ci sono dei casi, Giulia, in cui persone detenute si riscoprono lettori o lettrici nel periodo della detenzione, e come avviene, se avviene, questa riscoperta? Allora, sì. È un dato che ho raccolto e che mi è stato restituito varie volte nelle mie ricerche rispetto a questo tema. Io ho anche fatto una riflessione rispetto a quali sono le situazioni nella vita di una persona in cui si incontra l'esperienza della lettura, e sono generalmente la scuola, sono a volte una situazione familiare con genitori o fratelli o sorelle che amano leggere, quindi una sorta di apprendimento familiare, l'università, insomma, o i setting istituzionali o quelli meno formali come la famiglia, il gruppo di amici. È chiaro che succede che queste situazioni per le persone detenute a volte sono delle situazioni che non sono andate bene, no? e succede spesso, almeno dalle interviste che ho fatto, che le persone che ho incontrato mi hanno raccontato di esperienze scolastiche magari un po' difficili o di situazioni familiari non molto serene, e quindi il carcere può rappresentare un altro momento in cui nella vita di una persona si può incontrare questa esperienza, che è un'esperienza che si riscopre arricchente, che si riscopre condivisibile con altre persone, e quindi sì, la risposta è sì. C'è anche la questione del tempo, come giustamente Caterina tu dicevi prima, perché effettivamente a un certo punto una delle sfide più importanti, secondo me, sempre dalle persone che me l'hanno insegnato, che non l'ho inventato io, è la questione di far passare il tempo, appunto, no? E di farlo passare nel migliore dei modi, è quella la sfida, perché l'alternativa è stare molto male, quindi sì. Giulia, grazie. Avremo sicuramente delle domande anche da parte di chi ci ascolta, anche dalla casa circondaria della Dozza. Ritorneremo su questo magari domani, perché sei tutta la settimana insieme a noi. E a prestissimo. Quindi ci rivediamo domani. Grazie ai nostri ascoltatori e grazie a te. Grazie. Sempre giunti ai saluti di fine puntata, scriveteci sempre a redazioneliberidentro@gmail.com. Abbiamo avuto come ospite Giulia De Rocco, dottorante in scienze dell'educazione, quindi anche a lei potrete inviare attraverso di noi le vostre osservazioni. E la rubrica di oggi, a seguire su Lepida e poi sempre su Teletricolore, sono le mie interviste a Paolo Aleotti, che ormai conoscete bene, è giornalista di Teleradio Reporter e autore di un bellissimo documentario che vi faremo vedere e si intitola Sogni dietro le sbarre. A voi, ascoltatela e ci rivediamo domani. Grazie. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.